la situazione che abbiamo evidenziato era più o meno simile dappertutto, ovvero lavoratori sottopagati con contratti inadeguati. Sottopagati intendo paghe da 4 a 7 euro e mezzo l'ora, e contratti che vanno da quello delle pulizie, quindi delle aziende delle pulizie, quindi multiservizi, a quello dei servizi di vigilanza, quindi non il contratto di settore che dovrebbe essere applicato, che è il Federculture, che esiste, e poi appunto nessuna garanzia di continuità sul lavoro. Ed è appunto una situazione che è nata da questo sistema che è attivo nei beni culturali italiani da tantissimo tempo, che è questo sistema di appalti e concessioni che riguardano i servizi al pubblico dei musei, che è attivo da metà degli anni 90, cioè da quando è entrata in vigore la legge Ronchey, che ha aperto le porte dei musei ai privati, quindi dare in gestione lo Stato che dà in gestione i servizi al pubblico, quindi stiamo parlando di accoglienza, biglietteria, bookshop, le caffetterie, a aziende private. Gli appalti sono un problema in diversi settori, quindi anche in quello culturale, come ci state raccontando, ma c'era una reale necessità di dare in appalto appunto questi servizi? Qual è la ragione per cui il pubblico li dà in appalto? Sulla reale necessità noi ovviamente abbiamo chiesto a chi ci lavora e anche ai sindacati. Quello che ci è stato risposto è che in realtà non c'è una reale necessità, perché sembra che l'unico motivo per cui appunto si facciano questi appalti è poter sfruttare i lavoratori, perché di fatto lo Stato dà in appalto appunto questi servizi, come dicevamo, e ovviamente nell'appalto deve essere previsto un guadagno per i privati che gestiscono queste attività, e ovviamente il privato, per poter guadagnare, taglia sul costo del lavoro, che è l'unica variabile su cui può influire. Non c'è un motivo, perché sì, lo Stato in realtà ci perde sotto vari punti di vista, non ultimo quello della valorizzazione stessa dei beni culturali italiani, che era diciamo l'obiettivo della legge Ronchey e poi anche del codice urbani, che l'ha in qualche modo aggiornata. E come dicevi, i privati ci fanno grande profitto. Sì, grandi profitti soprattutto ovviamente nelle grandi realtà, diciamo, dove ci sono grandi aziende, perché ovviamente ci sono appalti molto piccoli a seconda dei musei di cui stiamo parlando, oppure appalti molto grandi in musei nazionali che fanno i grandi numeri, che sono il Museo Egizio di Torino, oppure i Musei Civici di Venezia, tutti i parchi archeologici di Pompei ad esempio, o di Roma, il Colosseo. Ci fanno grandi profitti, anche perché poi il sistema degli appalti che ha fatto entrare queste società private, che spesso sono società cooperative e che spesso hanno appalti in tutta Italia, quindi tantissimi appalti, ce ne sono magari grandi cooperative che hanno tanti appalti in tanti siti sparsi lungo la penisola. E poi appunto c'è stata un'evoluzione, diciamo, di questo sistema degli appalti, perché sono entrate in questo sistema le fondazioni sia a partecipazione pubblica, come ad esempio succede a Venezia, che lì c'è una fondazione che è totalmente partecipata dal comune, è stata creata proprio dal comune di Venezia, e poi questa fondazione a sua volta dà in appalto i servizi a delle cooperative che appunto poi hanno i dipendenti che lavorano nei siti. E poi vabbè, varie evoluzioni, nel senso che c'è anche ad esempio la società private a partecipazione pubblica, come ad esempio quella del Ministero. Il Ministero ha una SPA totalmente partecipata, il Ministero della Cultura, che è ALES, che appunto a sua volta ha dipendenti che lavorano in musei, in siti in tutta Italia e anche negli uffici del Ministero, ed è una società che applica il contratto del commercio, quindi ovviamente queste le persone che lavorano per ALES non sono dipendenti pubblici, e questo ovviamente costa al Ministero, perché la gestione di tutta questa struttura ovviamente fa lievitare i costi di un servizio che, se tenesse internamente, pagherebbe meno e probabilmente riuscirebbe a fare più soldi nelle tasche dei lavoratori. Voi avete, come dicevi prima, ascoltato anche i sindacati, che hanno delle proposte. Cosa è emerso? Tra le proposte c'è, la prima potrebbe essere un maggiore controllo sui bandi di appalti e concessioni, perché vengano tutelati i lavoratori, quindi magari per fare in modo che non entrino in questi appalti società esterne al settore, come invece capita sempre più spesso, e quindi perché vengano applicati contratti dignitosi, magari il Federculture, se possibile, che è quello proprio di settore. L'obiettivo però dovrebbe essere quello della internalizzazione di questi lavoratori. Alcuni ci hanno anche detto che uno delle vie potrebbe essere, ad esempio per le figure professionali medio-basse, si potrebbe seguire la via che è stata seguita per gli addetti delle pulizie nel, nelle scuole che sono stati internalizzati. Per tutti gli altri invece la via potrebbe essere quella dei concorsi, aprendo una nuova fase di concorsi per profili specifici e anche facendo concorsi in cui si riconoscano dei punteggi maggiori a chi lavora nei musei da tempo. Tra le proposte c'è anche quella di "Mi riconosci, sono un professionista dei beni culturali", che è questa associazione di professionisti del settore che da tempo monitora la situazione all'interno dei musei italiani e non solo, anche poi di biblioteche, archivi, comunque dei beni culturali in generale, che propone la creazione di un sistema culturale nazionale sull'idea del sistema sanitario nazionale, quindi tornando all'idea che la cultura sia un diritto essenziale come la sanità e l'istruzione, quindi una vera e propria riorganizzazione dell'offerta culturale con un fondo di risorse unico da finanziare ogni anno, con dei criteri di accreditamento e degli standard definiti dal Ministero per poter tutelare sia la comunità sia i lavoratori che appunto sono attivi in questo settore.